Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Sono le 8:20 minuti, caro Oscar, eccoci qui. Del 26 gennaio, caro Alessandro, lo so, ti abbraccio per ieri sera, ti abbraccio, sì, la Juve, hai visto la Juve, lo so, eri già andato a dormire, secondo me hai fatto bene. Sì, dopo l'1-0. Ci sono vicende, però stamattina sfogliando a proposito di Juventus. Ho visto infatti in prima pagina la Juve, giustamente, sul fatto. Sulla Gazzetta, sul Fatto Quotidiano, sul Fatto Quotidiano c'è questa esclusiva... Sì. Un po' dura, un po' duretta. Agnelli incontrava i mafiosi. Com'è che incontrava i mafiosi? Ripeti un po', incontrava i mafiosi. Ah, capito. Questo dicono, è il titolo, dice il Fatto Quotidiano, ovviamente. È la conclusione indagine della giustizia sportiva su capi ultra, biglietti, 'ndrine. Però insomma, sono testimonianze tutte da verificare. Dai, la conclusione dell'accusa, comunque, della giustizia sportiva. Assolutamente. Incredibile. Non sarà vero. Assolutamente. Noi neghiamo risolutamente, siamo comunque garantisti. Sempre. E comunque, complimenti alla Juve. Sempre. Semifinale di Coppa Italia. Non semifinale. Per non per queste indagini, ma insomma, complimenti per i risultati. Pure col piede sbagliato ha segnato Dybala, però vabbè, che vuoi fare? No. Vabbè, ma come hai detto tu, ti vinto la Supercoppa. Ma ne abbiamo vinto una Coppa, noi l'abbiamo alzata. Ecco, e poi altri. Se finisse la stagione adesso, siamo l'unica squadra italiana ad aver vinto un trofeo. Vediamo. Noi siamo sportivi. Noi. Vabbè. Basta, fermiamoci perché sennò poi li troviamo alla porta, per così dire. Allora oggi, santi del giorno, San Timoteo, discepolo di Paolo, di San Paolo, di Saul, che abbiamo ricordato ieri, la cui conversione abbiamo ricordato ieri, e poi un grande abate, Sant'Alberico, un grande abate di Sito, quindi stiamo parlando dell'undicesimo secolo. Tra le cose da ricordare avvenute oggi, questa mattina nel 1917 Giuseppe Ungaretti, che era sul fronte del Carso, scrisse appunto Mattina, mi illumino d'immenso, e insomma onore a chi con questa concisione ha saputo esprimere stati d'animo eterni. Oggi, devi sapere, il giorno in cui torniamo al proporzionale puro, perché questa è la sintesi, come vedremo, della sentenza della Corte Costituzionale, e anche però l'anniversario della nascita della Seconda Repubblica, che finisce, tornandoci in questo stesso giorno, tanti anni dopo, al proporzionale puro, perché oggi nel 1934 era il famoso discorso della discesa in campo di Berlusconi, che due mesi dopo, a marzo, vinse la elezione del 94, quello della calza, ti ricordi? Sì, ecco, la calza sulla telecamera 1994. Per apparire un po' più giovane o comunque un po' più caldo, e quindi la Seconda Repubblica, che ha cambiato diverse leggi elettorali, nessuna perfetta, per colpa dei partiti che pasticciano un po' di proporzionale, un po' di maggioritario, i poteri dei segretari, eccetera eccetera, ufficialmente finita, perché si torna al proporzionale puro. Tra coloro che compiono gli anni oggi, Corrado Augias, José Mourinho, controverso allenatore, da per quello che mi riguarda, io non sono mai, non mi convince la grandezza di Mourinho. Ecco, e poi uno dei più grandi chitarristi del secolo scorso, almeno a mio giudizio, cioè Eddie Van Halen, Dave Van Halen, non so, Jump per intenderci, da solo, è una specie di inno alla gioia dell'inizio degli anni 80, e lui suonava il tapping, lo sai cos'è il tapping, no? Si suona con tutte e due le mani sulla tastiera della chitarra, e è straordinario, un po' troppo pop andando avanti con gli anni, però negli anni in cui era più heavy, secondo me è straordinario. Va bene, allora... No, ma questa cosa dell'Italico, della Corte Costituzionale, a me, al di là delle questioni tecniche, perché poi le leggi elettorali sono molto tecniche, sono cose però che... insomma, si capisce. No, no? A me una cosa ha colpito, è un paese, l'Italia, in cui fai una legge elettorale, la difendi, la vuoi strenuamente, la fai approvare, poi te la bocciano la Corte Costituzionale e dici, beh, bellissimo! Ma è un trionfo. Stai parlando di Renzi. Ma mi ha colpito in questo caso. I retroscena dicono che ci sia un Renzi molto contento. Molto contento. Del fatto che gli abbiano bocciato alcune parti della sua stessa legge. Vabbè, ma dai, non credo che dobbiamo scoprire ogni volta quanto sono doppi e tripli i politici. Gli stessi che hanno detto, che non so, l'autore del Porcellum, no? Descritto nelle loro parole come Calderoli, gli eversori, eccetera, eccetera. Come si vede, tutte le leggi elettorali fatte dai partiti della Seconda Repubblica sono fatte per sono il momento. Zoppate. Esatto, per il momento, mettendo insieme, non essendo mai riusciti, PD e Forza Italia Lega uguali come responsabilità, tutti bocciati dalla Corte in tempi diversi, a scrivere una limpida legge di modello di una di quelle che funzionano senza tanti pasticci, visto che dicevano di essere maggioritari nel mondo, francese, britannico, come volete, invece no, dei mostri, pezzi di proporzionale, pezzi di maggioritario, sì, i segretari di partito che devono assicurarsi il maggior numero di eletti a tavolino, una Camera in un modo, quella in un altro, ecco, alla fine sono tutti stati bocciati, tutti. E quindi abbiamo una legge che salva un premio di maggioranza alla Camera che non scatterà mai attualmente, perché il 40% della sua non raggiunge nessuno, e che quindi ci fa tornare al proporzionale puro con una bassissima soglia d'ingresso, il 3%, che alla Camera disincentiva le coalizioni, i partiti ci guadagnano di più a separarsi, a moltiplicarsi, si piglia più voti così che insieme, al Senato il consultello tanto invece dice il 40% non lo prende nessuno, all'effetto non lo prende nessuno, il 40% dei sondaggi come si vede non l'ha mai avuto nessuno che pensi Renzi, però Renzi naturalmente si illude del contrario, ma l'idea di Renzi è di andare a votare subito perché altrimenti gli sfugge il partito di mano, mica perché crede di prendere il 40%, diciamo, è tutta che qui la faccenda. Adesso si può definire così quelli che vogliono il voto subito, che sono Renzi e Renziani, mentre il PD, la minoranza, cosiddetta minoranza, i bersaniani non tanto. Ma neanche i franceschiniani, voto... quindi in realtà negli certo eletti la minoranza significa i renziani. Però vogliono andare al voto la Lega, questo almeno dalle dichiarazioni, Grillo e il Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, mentre Forza Italia, Nicchia, dice Nicchia, no, bisogna come dire, mettere mano alla legge elettorale, armonizzare. Perché l'effetto del proporzionale puro della Camera è quello che Salvini e la Meloni non hanno nessun interesse ad allearsi con Berlusconi a questo punto, che prendono più voti da soli. E infatti attenzione, perché oggi il Corriere racconta che Renzi e Berlusconi, pur detestandosi, ma devono arrivare a una sorta di compromesso, di fare una legge elettorale diversa, ma oppure non un compromesso. Ma come si fa a immaginare che adesso fanno un accordo Renzi e Berlusconi per la legge elettorale? Capisci che significherebbe regalare l'argomento per infiocinarli da parte di tutti gli altri, quindi è un bel problema. Io non dico che sia facile andare a votare presto, no, ma per Berlusconi e Renzi riuscire a evitare di andare con la proporzionale pura la vedo molto complicata. No, quello che raccontano i giornali però, la maggior parte dei titoli, è la decisione della Consulta accelera verso il voto. Comunque vogliamo, intanto, visto che tu hai detto nessuno raggiungerà il 40%, i sondaggi sono quelli, vogliamo chiederlo ad Alessandra Ghisleri, che dirige l'Istituto di Ricerca Euromedia Research. Buongiorno Ghisleri e benvenuta, grazie di essere qui. Grazie, buongiorno a voi. È così, è come dice Oscar, cioè i sondaggi dicono che nessuno in questo momento può arrivare al 40%, no? Sì, ad oggi è impossibile, nel senso che il partito che sostengono, i due partiti principali, quelli che ricevono maggiori preferenze, sono il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, e sono intorno al 30%, quindi mancano ancora 10 punti percentuali. Eh sì, pensare a un'unione di questi due è la follia, e quindi cosa vuol dire? Che ci ritroviamo, cioè questa corsa al voto. Dire che ci troviamo molti più partiti nelle liste, perché la sua del 3%, pensa quanti, quanti piccolini esclusi diranno certo, ci provo a farcela, uno, due, disincentivo alle coalizioni, quindi ripeto, Forza Italia e Salvini non stanno insieme, beccano più voti da soli, mani libere di fronte agli elettori prima e mani libere in Parlamento dopo. A oggi la maggioranza più probabile è quella sovranista, che non è facile da immaginare, cioè Forza Italia è fuori, mentre invece Lega e Fratelli d'Italia e 5 Stelle per un governo tecnico, diciamo così, per uscire dall'euro. Ma questo è quello che fai la somma dei potenzialmente Ghisleri, queste, anche se il Movimento 5 Stelle poi bisogna vedere se si unirà, quanto potrebbe portare questa unione sovranista? Ma noi abbiamo fatto delle simulazioni sul proporzionale puro che erano state pubblicate ieri dal Mattino di Napoli. I mondialisti, chiamiamoli, verso sovranisti, facendo dei giochini evidentemente, sì, con spunto, raggiungevano comunque non la maggioranza, 306 seggi, mentre Partito Democratico e Forza Italia più area popolare 300 seggi, e poi c'erano 24 seggi di Sinistra, Ecologia e Libertà. Quindi sarebbero comunque rimasti fuori. E poi c'è il problema, evidentemente, al di là dell'incompatibilità delle due liste, le due leggi, sia al Senato che alla Camera, che al di là delle soglie e dei collegi, perché sul Senato abbiamo dei collegi regionali, abbiamo anche che il Senato è una, permette le coalizioni di liste, certo, mentre invece in questo caso si va in lista singola, quindi ci sarebbero dei doppi accorpamenti per poter entrare a superare l'8% all'interno delle coalizioni, o se ci si presentasse da soli, per poter accedere a un seggio in Senato, mentre invece non ci sarebbero, come ha detto prima Oscar benissimo, cioè è più vantaggioso presentarsi da solo in modo tale, sì, che riesco ad accumulare una percentuale di voti maggiori alla in questo Camera. Caso riesco, e sì che si diceva bisogna fare una legge elettorale in cui si sa il sì, giorno dopo sì, chi ha vinto e hanno bocciato il ballottaggio il giorno che dopo che i partiti si mettono d'accordo, ecco, lo sai, ci fosse rimasto il ballottaggio, mani è chiaro libere, che a quel punto la cosa incredibile è che con questo panorama politico, con queste percentuali, nessuno riesce, nessun accorpamento, a meno che evidentemente non ci fosse un accorpamento tra Movimento 5 Stelle e PD, riesce a superare numericamente la soglia della maggioranza alla Camera. Cioè aumentando l'incertezza, parliamoci chiaro, aumentando rischi di ingovernabilità, il potere di influenza e di veto di microformazioni. Cioè si torna indietro. A peggio della Prima Repubblica, perché non ci sono più neanche, voglio dire, i due soliti grandi partitori nella Prima Repubblica. È così, e il bello è che viene spacciato come una cosa positiva. Ma questa che cos'è? È la fine dei grandi partiti della Seconda Repubblica, non sono stati capaci di fare leggi elettorali limpide, ed ecco che cosa ci però Oscar regalano. Viene spacciata come cosa positiva da chi vuole andare subito al voto, i partiti che dicono così si può andare a votare perché la consulta ha detto si può, però il sorrisetto dei capi partitini di avere le mani libere, guarda, ma infatti rovesciamola così, Ghisleri, a chi è che conviene di più, stante questa situazione, andare al voto subito? In teoria se si vuole aumentare, innanzitutto la Lega, perché la Lega è entrata con una rappresentanza nel 2013 del 4,1%, adesso esprime esattamente valori tra l'11 e il 13%, quindi capisce bene che c'è un aumento importante. Il PD che era entrato con il 25% e quindi in una fase di crescita attuale, si potrebbe, rispetto allora, si potrebbe pensare che evidentemente ha dei seggi da guadagnare. Il Movimento 5 Stelle, anche lui è entrato col 25,6%, quindi tutti i partiti a crescere. Non conviene invece a chi deve dimostrare, no, di avere un futuro, quindi non so, Area Popolare, Sinistra Ecologia e Libertà, eccetera. Lo stesso Fratelli d'Italia conviene perché era entrata con il 2%. Eppure adesso l'amministrativa, avendo dimostrato che è un partito molto romacentrico, grazie anche al suo leader, insomma, Giorgio Meloni, rileva nei sondaggi un dato che oscilla tra il 4,5 e il 6%, quindi ha un'evoluzione di 3 punti percentuali che rappresenterebbero comunque una crescita in seggi, perché su una distinzione proporzionale semplice raggiungerebbero quasi, supererebbero il 35%. Però questa effettivamente è tutta l'analisi, diciamo, partito per partito, ma vedere una maggioranza proiettandosi in questo stato, in questo stato dell'arte, politicamente è quasi impossibile per tutto, tranne che per una cosa, la convergenza antieuropea. Per quella puoi fare anche un governo in cui non si mettono dentro direttamente gli uomini d'Europa. Tu dici Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle, per esempio. Certo. Però arriverà, sì. Allora, nell'ipotesi che abbiano su questo una maggioranza degli eletti, tipo, cioè, perché... ma un governo di questo tipo ve lo vedete, non lo so, quanti elettori del 5 Stelle accetterebbero di governare con la Lega? Comunque la campagna elettorale farebbe scattare dei meccanismi di polarizzazione del voto verso un voto utile, quindi sì, sicuramente anche il Movimento 5 Stelle, Grillo ha già accennato nelle dichiarazioni di ieri, quello tenderemo al 40, perché evidentemente è la soglia di vittoria che attribuirebbe il 54% dei seggi. Non è facile raggiungerlo, però se ricordiamo anche la campagna delle europee, dove Renzi poi oggettivamente arrivò al 40%, in quel caso allora c'è la possibilità, come campagna elettorale spinta, non converrebbe sicuramente, come è già stato detto, dichiarare i propri, eventuali accordi futuri. Ognuno calcherà sul pedale della propria identità, come se il resto del mondo non esistesse. Ma non è che non le abbiamo viste le campagne proporzionali, io ci sono cresciuto in un paese proporzionale. Dopodiché in Parlamento, sorpresa, ci si mette d'accordo. Questo è. Ma che bella cosa, dopo tanti anni. Possiamo essere felici. Non vi dico poi, cari ascoltatori, le tonnellate di studi di economisti sull'argomento. nei paesi proporzionali puri si fa più deficit e debito? Risposta sì, e nella storia lo sappiamo con certezza, ma invece no, l'Italia verso la fine del QI avrà un bel proporzionale puro, più deficit e più debito, tutti felici, tanto pagate non so, voi cari ascoltatori. Non so quante leggi elettorali abbiamo cambiato in questi anni, qualche giornale oggi lo diceva, credo 5 in 11 anni. Queste sì, 5 perché dal Mattarello. Negli ultimi 11 anni ne abbiamo fatte due, no? Il Porcellum prima e l'Italicum poi, che sono state tutte e due illegittime, contrarie alla Costituzione. Questo spiega anche la rappresentanza della politica nel rapporto con i cittadini, se vogliamo, la loro propria credibilità. Sì, che tra l'altro i cittadini che non la capiscono la legge elettorale, perché è una cosa anche molto tecnica, e oltre a non capirla, se la ritrovano così, cambiata, pasticciata, bocciata, cassata. No, ma poi pensate, la Corte non boccia, io sono curioso di leggere le motivazioni, la possibilità di avere dei capilista fissi, scelte dai partiti in 10 collegi, però, non ce n'è un paese al mondo, cari ascoltatori, però se eletti si fa il sorteggio, si fa, ma io effettivamente il sorteggione in sala ma li abbiniamo a una lotteria, cari ascoltatori, comprate il biglietto e chi vince il sorteggio, questo è bellissimo, ma effettivamente si potranno candidare i capilista in tutti i collegi, ma alla fine non potranno scegliere il collegio, ma alla consulta deciso si procederà ad un democratico sorteggio. No, ma vi ricordi? No, voi siete troppo giovani. Voi non vi ricordate il sabato pomeriggio, televisione in bianco e nero, monocanale in bianco e nero, monoscopo della Rai, e c'erano le cose che giravano, il bambino bendato, certo, che estraeva il numero. Così. Io lo voglio così. Capolista Bersani. Pazzesco. Collegio di Andria, lo voglio così. La polvere dei millenni su questa Italia si deposta. No, vabbè, ma noi forse scherziamo troppo, Alessandro. Poi... No, vabbè, ma perché comunque se noi ci riflettiamo, sono 10 capoliste per 100 collegi, vuol dire che con 10 capoliste copri 100 collegi. Certo, perché certo. Hai la replicabilità in 10. E quindi vuol dire che comunque hai 10 posti sicuri allo stesso modo. Perché però spieghiamolo per gli ascoltatori: i capolista bloccati scelti dal segretario del partito sono un meccanismo per avere agli ordini gli eletti invece che farli scegliere dagli elettori. Cioè, tutto questo noi stiamo ironizzando. E la Corte, incredibilmente, molti si aspettavano che bocciasse questa storia di capolista bloccati e della pluricandidabilità, che sono tutti segretari di partito con i poteri assoluti. E invece, guarda, su questo però la Corte si è trattenuta. Ma attendere le motivazioni nel giro di un mese, entro 15 giorni il relatore sorteggio. Zanon, uno dei giudici, sulla ruota di Napoli, primo estratto. Vabbè, noi intanto ringraziamo Alessandra Ghisleri, abbiamo anche un po' giocato perché la legge elettorale è una materia così un po' altrimenti un po' pesante e polverosa. No, non vorremmo aver levato credibilità alla dottoressa Ghisleri, ci scusiamo con lei, siamo stati un po' scherzosi. Assolutamente, ci ha detto delle cose molto importanti sui partiti, come sono posizionati. Grazie davvero Alessandra Ghisleri. Grazie a voi. Alla prossima, ci chiama Daniele da Verbania, buongiorno Daniele. Sì, buongiorno, volevo alleggerire anch'io l'argomento e sentire due rosiconi, il Granata e il milanista, cosa pensano della partita di ieri. Lei dice che questo è alleggerire. Caro Daniele, io non posso dire nulla perché all'1-0 ho detto la partita è finita e posso andare pure a dormire. L'ho spento. Testimonio, testimonio. Cosa le devo dire? Testimonio. Giuro. Mi ha dato anche un SMS, quindi è vero, è così. Ho scoperto questa mattina che è finita 2-1, ma giuro, ho sentito 2-0. Tanto mentre... è vero, no, posso comprovare il gol di Bacca, peraltro un bel gol dal punto di vista tecnico, l'ha visto stamattina, poco fa. Abbiamo fatto un bel gol, noi ci accontentiamo così, caro questo, Daniele, quindi, arrogantino juventino. Comunque, ragazzi, fino alla fine, forza Juventus! Sempre! Però, Daniele, lei deve capire che la superiorità filosofica... Anche Barcellona ogni tanto... Di chi ti fa per anche come vede Alessandro... Dico Alessandro, qualcuno che forse avrebbe qualche motivetto ancora per avere le palle che gli girano nella vita, ecco. E invece oramai prende le partite con la Juventus come un sonnifero, va a dormire mentre sono in corso. È la supremazia filosofica. Io ho detto, se teniamo lo 0-0, gol. Ho detto, bene, andiamo. Anche finita prima del previsto. C'è un Twitter precedente di ieri sera, quindi non sta inventando. Dai, andiamo in pubblicità, va, forza Barcellona, forza Juve. Allora, caro Oscar, Germano mi chiede su quale giornale di oggi ci sono i consigli per il sonno. Sul Corriere della Sera, prima l'ho letto. Gli era sfuggito. Germano, Corriere della Sera, deve essere un insonne. Però una cosa non ho capito, scusa, illuminami tu. Il consiglio per il quale non bisogna svegliarsi troppe volte, sì, come esatto. Se dipendesse come dalla decisione a tavolino. A me capita di svegliarmi tantissime volte, sicuro il collega del Corriere. Stanco. Sì, però voglio dire, prescindere, dormo troppo poco. Ma non è quello il punto, ma non è che l'ho deciso io. Anch'io. Caro collega, bisogna addormentarsi entro 30 minuti da quando ti sei coricato. Adesso ho capito. Ti metti dormi entro 30 minuti. È la cosa peggiore addormentarsi. Sergio da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Che ci dici? Buongiorno a tutti. Volevo solo dire che nessuno si chiede mai, o se lo chiedono ma fanno finta di non sentire loro stessi, di che cosa ha bisogno l'Italia. Ce lo dica lei. Non ha bisogno di una legge proporzionale che partorisce 20 partitini al 3,1 e ricatta il governo ogni 2x3. Ha bisogno di un governo, e in questo aveva ragione Renzi, che la sera delle elezioni dopo lo spoglio si sappia chi governa e chi è l'opposizione. Ma hanno cancellato il ballottaggio. E quindi... Ma ecco, grazie alla consulta bisogna ringraziarli. Però Sergio, guardi che però ogni 8 mesi siamo tornati. Se consente, se consente di dare la colpa alla corte, è un po' troppo comodo. Anche perché Renzi fuori è contento. Fare leggi elettorali pasticciate, ecco che intervengono le corti. Sa, se avessero fatto una legge britannica o francese, la corte non interveniva. Il problema è che, ripeto, che il fallimento è dei partiti nella loro legge elettorale. Anche troppi perché, pasticci. Sergio, oggi su tutti i giornali si racconta di un Renzi euforico per questa bocciatura, perché vuol dire si può andare a votare prima. Quindi capisce che... Ma è tutto un po' bizzarro. È tutto un po' ma bizzarro. Perché i paradossi della politica italiana. Sai, adesso, chi viene bocciato dalla Corte dopo aver insultato tutti gli altri le cui leggi elettorali erano state bocciate dalla Corte, sia esultante e dica che ha vinto, lo rende uguale a tutti gli altri partiti. Mettetevelo in testa, tale e quale. C'è Lorenzo da Torino, buongiorno. No, ma sì, Lorenzo da Torino. Sì, ciao ragazzi. Eccoci. Ciao Oscar, io sono qua in Corso Giulio in coda mentre sto andando a lavorare alla Iveco, vabbè, questo è un altro discorso. Però senti, io il discorso che volevo farti è questo: io non ho mai capito bene qual è la tua proposta di legge elettorale, parlo con Oscar, nel senso che siamo alle critiche. Io faccio un altro mestiere, io mi limito a dire, essendo io, non ho mai cambiato idea sul fallimento cui ci ha portato la legge proporzionale pure in Italia, dico che i partiti scelgano e decidono una delle tante leggi esistenti che ha dato buona prova di sé, maggioritarie al mondo. C'è il maggioritario uninominale a turno unico britannico, troppo secco, distorce troppo i criteri della maggioranza, si vede, no? Farage può prendere tanti voti e ha un solo eletto, benissimo. Allora alla francese, doppio turno con soglia secca per partecipare al secondo turno, e così gli elettori possono scegliere anche al secondo turno. Non proporzionale. Però il maggioritario, perché oltre che rappresentare, le leggi elettorali devono consentire la formazione di governi che durino 5 anni, con un programma spiegato chiaro agli elettori. Agli elettori devi dire prima chi sei, con chi vuoi regnare e cosa fare. Col proporzionale non fai nessuna di queste tre cose. Sono d'accordo, sono d'accordo anch'io su questo. Il problema è che la Corte non è di tutto avviso qua in Italia. La Corte si è pronunciata sempre sulle leggi elettorali pasticciate, pezzi di proporzionale, pezzi maggioritario, nessuna delle quali era esistente al mondo e con molte contraddizioni dentro. Questo è il motivo per cui i partiti hanno capitolato e siamo l'unico paese avanzato al mondo in cui le leggi elettorali le scrivono oramai da molti anni le corti costituzionali, non ce n'è un altro. In ogni caso, su questa vicenda torneremo, Guardate che però vi vogliamo raccontare uno spaccato di quell'Italia che sembra non cambiare mai, Oscar, un altro pezzo d'Italia in cui si dice una cosa ma ne viene un'altra. Esatto. Nola, indagato un terzo del comune, 63 avvisi di conclusione di indagini, assenteismo, eccetera. Giuliano, in provincia di Napoli, 56 indagati, andavano a giocare strisce, solito schema, strisciavano poi chi andava a fare i fatti propri, chi giocava il gratta e vinci, chi... Ci avevano promesso che con la nuova riforma la paura si sarebbe diffusa perché il famoso licenziamento entro 48 ore e quindi il fenomeno sarebbe scomparso. Eccoci qua. Va bene, è su un treno e quindi il collegamento è un po' difficoltoso, ma forse ce la facciamo a prendere la linea. Avevamo preso la linea, poi è caduta con il sindaco di Giuliano, Napoli appunto, si chiama Antonio Pozziello, vediamo se è con noi il sindaco. No, in questo momento non prende la linea, sarà in un tunnel il treno. Ma perché tutte le volte dobbiamo ogni tre giorni raccontare queste cose. Io mi sono perché sono diffusissime nella pubblica amministrazione. A, sì, B, ma le ricordiamo col solito come schema. Si vede col solito schema. Tanti pezzi della pubblica amministrazione, e non sto colpevolizzando in termini generali i lavoratori della pubblica amministrazione, molti dei quali sono i primi che vengono umiliati da queste cose perché vorrebbero lavorare di più e meglio ed essere premiati però per quello che fanno, mentre invece non sono premiati e vedono i furbi andare avanti. Ma ci dimostrano anche che c'è, diciamo, un terzo della pubblica amministrazione e molti uffici di cui potremmo fare allegramente a meno, tanto per essere chiari e ricordare che li paghiamo noi, eh? Ecco. No, no, giusto per capire. Ma allora questa legge Madia funziona? Perché poi abbiamo anche, ti ricordi quando abbiamo ospitato alcune persone che dicono che si possono licenziare? Allora, l'abbiamo recuperato, sindaco di Giuliano, Antonio Pozziello. Buongiorno, sindaco. Buongiorno, buongiorno. Ecco, ci dica che lei non ne sapeva nulla di questi... di questi... Noi è certo che non sono nulla, altrimenti avremmo pigliato provvedimenti prima. Avevamo preso una serie di provvedimenti per cercare di evitare che potessero esserci episodi del genere, quindi c'era stata la rotazione del personale, una serie di movimenti, insomma, per tenerli un po' più sotto controllo. Avevamo anche sospeso alcuni dipendenti condannati, cosa che non era stata fatta in precedenza, e abbiamo licenziato qualche mese fa un dipendente per assenteismo. Quindi, quindi si può, insomma, fare, si può fare. Lei ci conferma, sindaco, che si può fare. Si licenziato. Può fare, licenziato. Licenziato. Ha fatto ricorso? Sì. Certamente. Il ricorso è pendente. Mi sa che è qui, è qui. Chissà. Questa è una mazzata, perché è gravemente lesiva dell'immagine della città, dell'ente, ma soprattutto lesiva dell'onorabilità dei lavoratori che ogni giorno mandano avanti uffici con ampiamente sotto organico e che vanno avanti e offrono servizi di buona qualità grazie all'abnegazione degli altri. Sì. Quindi i primi danneggiati sono i lavoratori seri. Certo. Quanti sono in tutto i dipendenti del comune? In tutto noi abbiamo 230 dipendenti, 230. Per un territorio di 94,6 km quadrati e 125.000 abitanti. Siamo 230 dipendenti, 50 indagati, sono poco meno di un quarto. Levando in 60 vigili è un numero elevato. Poi io tendo a non sostituirmi né all'avvocato né al giudice, quindi... ci sono posizioni variegate, alcune sono assolutamente indifendibili, altre catalogabili come sciatteria e stupidità, alcune sono di una gravità estrema. Per l'immagine, esempio, alcune... l'immagine del dipendente che va lì con 7 beige è inguardabile, così come anche la dipendente che, per quanto sia affetta da ludopatia certificata, esce per giocare ai grazie e vinci, è qualcosa che fa cadere le braccia. Ludopatia certificata. Ma senta, ma sapevano che c'erano le telecamere oppure le ha messe i carabinieri di nascosto? Perché ci sono anche comuni in cui le telecamere ci sono. Da noi ci sono le telecamere, ma stanno nelle aree esterne. Sono sulla strada per la sicurezza urbana. E quelle lì le hanno messe i carabinieri. È chiaro. Che hanno avuto, bisogna dire, insomma, la massima disponibilità da parte dell'amministrazione e dell'ufficio del personale, degli uffici, per fare tutti gli accertamenti che andavano fatti. Quindi nessuno è stato coperto, nessuno è stato agevolato, e da parte nostra stiamo adottando, perché sono stati adottati immediatamente tutti i provvedimenti disciplinari che vanno adottati. Ma l'indagine della procura e quindi dei carabinieri per la parte di polizia giudiziaria nasce su che input? Nasce dopo i fatti di Sanremo. Ed è la cosa folle è che dopo, insomma, chi ha avviato tutto? Cioè, nel senso, è stata una soffiata? No, è stata un'attività di indagine, un'attività di iniziativa dei carabinieri e compagnia di Giuliano. A cui, insomma, va dato merito e ringraziamento di aver portato fuori una vicenda, e si spera, insomma, di aver debellato un fenomeno che voglio credere che non si ripetano più casi simili, e voglio sperare che siano di monito poi per, insomma, l'intero comparto del pubblico impiego. E non lo so, però, signor Sinavo, che il nostro compito, purtroppo amaro e senza alcuna soddisfazione, è quello di dover rilevare che queste cose invece persistono. Perché, ma voglio dire, a nostra impressione, ma detta anche dagli inquirenti, perché la leva penale è una leva, sì, che colpisce lì per lì, Ma il problema è che poi, se torna nell'ordinaria amministrazione il dirigente colluso che fa finta di non vedere, e quindi nella catena gerarchica ciò che consente poi a lei di dire non lo sapevamo, ecco che alla fine si torna a prima. Anzi, si dice statisticamente, ci ha detto una volta un inquirente, nel posto dove abbiamo colpito alcuni dicono ma mica verranno qua di nuovo. Quindi attenzione a credere che l'intervento penale, il problema deve essere l'organizzazione, i controlli della catena gerarchica ma amministrativa, i dirigenti da rendere parte responsabile, se no non è detto che non funzioni esattamente come prima, ci dicono i poliziotti e i carabinieri. Che in parte è vero, in parte credo di no, perché ha un un effetto emotivo, anche un effetto traumatico di interventi del genere. Poi insomma ha voglia a dire già sono passati. Io credo che invece servano e siano importanti. Da parte nostra proveremo a inventarci nuovi sistemi per accentuare i controlli e via dicendo, cosa di per sé complicata, perché noi abbiamo una situazione che è veramente grave sul fronte del personale, il che rende è un aggravante per quello che è successo, perché noi abbiamo uffici che rischiamo di chiudere e che non sappiamo come coprire, personale assolutamente insufficiente, e questo diventa poi non la scusa o l'alibi, insomma, ma diventa anche un motivo per cui oggettivamente è più complicato fare cattivo, fa sette cose contemporaneamente, non ne riesce a fare l'ottava, quella del controllo, ma è anche difficile che uno riesca a scappare, perché sono talmente pochi che si guardano uno con l'altro, oramai gli uffici sono sotto organico del 75% più o meno. Quindi non lavorare diventa sempre più complicato. Lei dice diventa anche più difficile colpire quelli che poi dopo vanno ancora a far dimagrire l'organico. No, perché lei sa che signor sindaco, il compito nostro, che a questo punto ai nostri ascoltatori, spiegare che il problema è che c'è un 65% di organico in più da mettere, quando loro ci dicono no, veramente ce n'è un terzo da mandare di cui si può fare a meno. Capisce che è un po' distante, la differenza, ecco, cioè rilevante. Comunque, differenza. Alla prossima puntata in cui racconteremo di un altro comune di vicende simili, perché questo di fatto è questo. Poi facciamo periodicamente. Ringraziamo il sindaco di Giugliano, Napoli, Antonio Pozziello. Effetto terrore della riforma Madia è pari a zero. Esatto. Ci spiace Federico da Pordenone, se possiamo tenere il suo numero di telefono domani mattina la richiamiamo, il tema credo politica. Adesso andiamo a vedere l'agenda degli incontri oggi alla società sportiva Juventus. Non so, incontreranno Gagliani, vediamo il fatto, chiediamo al fatto chi incontrano. Non lo so. Dai. Ciao, alla prossima!